detto Kartoffeln. Adesso, ma contano, che hai le coppe di quello. Kartoffeln, patatene, ma che dici, c'è un briaco, sì. Sogno, il canale è un sogno. Drago, vai piano col bene, Dragos, vai piano col bene. Ma che ci veniamo prima? Oh, tu bevi troppo, lascia stare la bottiglia. Pitramoga, scopo di più, pesi, Alexio. Lascia la bottiglia che ti fa male. Caramela! Quanta la bega, dicono qua. Quanta la bega. E allora, come sa va, se copri? Quanta la mela, this is Olanda, che è un copy. Olanda, Netherlands, che è un copy, my friend. Porca miseria, Olanda. Di lusso è Santiago 9, Radio 5, Olanda. Il nord Sardegna ti ringrazia e saluto. Operatore Antonio. I put my business in the Roger. Operatore Antonio sempre, Olanda, Olanda. Ho capito, Olanda. E qua nord della Sardegna, isola bagnata, nord della Sardegna, Olanda, se vai uscendo. Yes, it is Olanda, ma pausa not to come, is it Roger? Da un controllito radio, por favor, operatore Antonio, nord della Sardegna. Ah, Sardegna, good evening. It's your very strong station, Roger. Positivo il K di Rogero. Dammi un segnalito di Santiago Radio, por favor. Roger, Sardegna. You have a beautiful voice, isn't it, Roger? Tutto beautiful, operatore Antonio, beautiful, operatore Antonio. All right, it is Olanda, station, blow the controls. Positivo il caparoiere, positivo il caparoiere Olanda, dai. La cosa è positiva anche per noi, dai. Tutto roiere, caparoiere, cambio. Capito. Bye bye Olanda, dai. Vivo Olanda, bye. Sardegna ti saluta, operatore Antonio ti saluta, Olanda. Ok, Antonio, va Sardegna, bye. Ciao. Ciao, bye anche a te, QRA familiare, ciao. Ciao. Il dinero da Olanda, di Antonio. You hurt me, man, you hurt me. Camo, dai, tutto Royer, dai. Salutoni a voi e QRA familiare. Salutoni voi e QRA familiare, dai. Antonio dall'isola Sarda, l'isola della Sardegna vi ha salutato, cambio. Bye Sardegna, bye. Ciao. Hij zit wel, dus... Volgens mij kon hij jou ook kopiëren, hoor. Kijk eens. Attenzione, 10, prego. sul computer andando, se puoi immaginare. Luca! Luca, mi intendi, cazzo? Io pago con PostPay, mi trovo bene con quella. PayPal, non l'ho mai fatta, non mi interessa averla. Mi interessa avere solo i soldi giusti per comprare l'apparecchio. Quando, per dire, voglio comprare una cosa, verso quei soldi lì, giusti, se ti rivura, ti vuole risolvere. E fatti. Adesso vediamo, aspettiamo, se non ordinato, poi quando arriva mi chiamerà. Ma per telefono non te le faceva, Dio? Non si può, ha detto Marcolino. Ma cosa non si può? Per legge non si, praticamente chi mette l'articolo subito dovrebbe venderlo al computer. Però tu non sai quanti apparecchi ho comprato io così, erano su eBay, l'hanno tolti e me l'hanno venduto così al telefono. Ma su cosa dite allora? Basta che tu gli offri la cifra che vogliono loro, e fatelo io. Vabbè. Però anche me ci deve guadagnare, capito? Allora in ogni caso quando loro mettono l'articolo, capito, ci guadagna eBay, perché loro devono pagare per mettere l'articolo. Infatti, è quello, ma se prenderanno un... Stanno attimi, che se te si copri. Una percentuale, Sì, sì, ho capito. Io non ti ho dato risposta perché purtroppo a casa è successo un patatrac, si è bruciato l'uvio che è attaccato al contattore e siamo stati senza luce un giorno e mezzo. Certo. E meno male che con appoggi, cioè praticamente conoscevo questo elettricista che è bravo, era in ferie, non rispondeva al telefono. C'è andato a casa sua, l'ho recuperato, ha detto fammi questa cortesia, dice cazzo già qua non è, ha aperto tutte le scatole a casa, provato, salvavita, ha aperto un sacco di roba, e invece era da giù. Ah, ecco, da giù era da me. Sì, dove sono attaccati i contatturi. E quindi abbiamo dovuto chiamare anche lei, oltretutto. Cappagatto, tu pensi dove? Non è mai successo una cosa del genere, dice che è difficile, che può darsi che sia, è stato morsicato a qualche topo pure. Beh, sicuramente. Sì, intanto, lì ogni tanto si vede anche qualche gadarara, qualche cosa, non so cosa sia successo, di solito c'è che sono i topi che li mandano in corna. Kappa. E vabbè, la comunque messa a posto adesso. Kappa. 100 euro di intervento dovuto pagare col mio amico, perché è venuto anche quando era in ferie, cazzo, avevo dovuto tirare per forza, che aveva smontato tutto. Che casino, ma se aspettiamo questa cosa qua, se no. A volte pensi di avere qualcosa in più che se ti volano così subito, Ma che non è così? Grazie, dica che cosa in più che ti ripigliare su, io. Vabbè, pazienza. Pensate, avevo risolto perché avevo paura più peraltro per l'acquario e il frigorifero che era colmo, proprio carico di roba, c'era iuve, c'erano mozzarelle, un sacco di roba, gelati, mi dispiaceva perdere tutto. Vabbè, ti credo, vabbè, comunque l'ho risolto, dai. No, i gelati la roba che si guastava era anche quella di fronte. Se meritava nel freezer, me li ha messi dentro il freezer. Per fortuna la roba che si guastava era anche quella di fronte e l'abbiamo salvata. Poi per i pesci la temperatura adesso è a 30 gradi, quindi grazie a Dio dove è successo d'inverno, perché sennò mi crepavano tutti e si raffreddava l'acqua. Invece adesso a 30 gradi la temperatura va benissimo. E già ci siamo salvati, dai. No, ma non vale. casino, che casino, gappa. Quella estate, cazzo, senza acqua fresca, ma lei non è fermo. Sì, è un gioco. Quella che ce la siamo dovuta bere com'era, e cosa devi fare? No, vabbè che c'è gente che non le mette nemmeno acqua in fresco, io anche d'inverno. Beh, ti credo. Ti credo, già, aspetta 10 minuti che devo dare, mangiare la luna, non ho mangiato poverino. Aspetta, aspetta. Arrivo subito, dai. Che cosa stai dando? Lì? Ah, chi si chi fai, magna? Buon crocantini. È bello, Non me lo ricordavo, così bellissimo. Che cosa? Luna. Ah, sì. Sempre in moto, te lo porti. Basta, arrivo subito. Sono Soletto. No, sono con Luca e c'è la Luca, però e si è allontanato da mangiare al cane. Ah, mi sì, sto rientrando. Ho fatto un giretto a piedi piano piano, stavo rientrando. Adesso vedo se c'è qualcuno. Qualche superstite c'è. A macchina sì. No, a piedi ero. Qua in zona, vicino a casa. Fate un giretto, si è andato, fate la passeggiata. Ehi, abbraccetto con la mia signora, piano piano. Zio Marco e zia Maria. Ehi, avrò più gaie. E non è fatto bene. Appagato, ma adesso ci organizziamo da lunedì. Ci organizziamo lunedì, vabbè, devo fare delle cose, ma martedì magari scendiamo. Dove? Al mare. Al mare? A me viene bene proprio dopo a fine settimana. Senti, viene bene a fine settimana? Per il momento sì. Non c'è problema. Intanto vado anche con la mia signora, non è che non c'è nessun problema. Quando vuoi me lo dici, non c'è problema. Ma hai sentito che hanno messo tutto a pagamento, litorale, dalla rotonda, tutti i bigliettini, hanno messo tutto a pagamento. Mi pare che pagano 1,50 euro i residenti, che sono i Giussinchi, poi tutti gli altri pagano di più. Oddio mio, fregato, dalla rotonda sino a quale pettine? Tutti, Marina di Sorso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quello deve appartenere tutta a Sorso, capito? Però il sindaco di Sorso. Tanto è vero che una volta i vigili urbani di Sassari avevano messo le multe alla rotonda ed erano andati a recuperare i soldi delle multe, lo sai? Andiamo bene. E adesso, porca miseria, devo andare al mare, oltre alla benzina pure pagare. Dov'è qualche altra soluzione? Qua per stare lì a spendere i soldi per il parcheggio, preferisco andare a Sassari, prendere il tram e me ne vado a Platamona. Tanto dice ogni mezz'ora, ogni ora, poi me ne rientro a casa. Così quei soldi del parcheggio li uso in tram. No, ma dov'è? Ci sono i tetti dove non si paga. Per dire, se tu vai dopo la rotonda, qua al presidio militare, lì sta quella zona lì, non si dovrebbe pagare. Bisogna vedere poi se sono anche contrassegnati, diciamo, lì nel manto stradale. Proprio parcheggi, ecco alla fine, se no se vai presto la mattina come andavo io domenica, come ogni domenica, meno male riesci a trovare qualche parcheggio lì in quei negozi, diciamo, di pizzerie chiuse che non aprono più, si possono mettere lì tranquillamente. E in terra non ho insegnato nulla, ecco, proprio per evitare anche di pagare lì. Sì, ma anche andando tra il quinto e il sesto pizzo, ti ho detto c'è un pezzo dove c'è un'area che si parcheggiano tutte le macchine. Lì non dovrebbe essere a pagamento, tu dici tutto il litorale di Plattamona. E il sindaco di Sassari ha protestato, ha detto che era una forma di razzismo nei confronti degli altri, quelli dei paesi, quelli di Sassari e cose, perché quelli di Sassari li fa pagare di meno, quelli dei paesi, quelli di Sassari li fa pagare di più, perché? E non siamo tutti gratisati, che cazzo sta facendo questo sindaco? Comunque per il momento è approvata, già in vigore, giusto? Sì, sì, non ho detto altro nel giornale, che praticamente tutto il litorale a partire dalla rotonda sino ai pettini, pettini, Marina di Sorso e via dicendo, tutto ciò che appartiene a Sussu. Sì, va, cara. Allora, ce ne vado a te con una cosa, si va a Porto Torres e mi va bene lo stesso. Mi sento a guardare le stesse facce, no, no. No, più che Porto Torres si può andare dopo la torretta, lì, capito? Anche lì vuole dire, diciamo, bene o male, la metti lì, sulla destra salendo, sulla sinistra o sulla destra scendendo, comunque, sì, anche lì si potrebbe mettere, no, per fortuna ci sono dei pezzi che non si è costretti a pagare. Fatto sta, l'unica soluzione è andare la mattina presto, alle 7 sei lì e sei tranquillo e pacifico. Sì, alle 7 è anche troppo presto, quando sei alle 8:30 lì ce n'è per i pulci, mio Antonio, alle 7 è un bellissimo, è freddo ancora. No, sinceramente si sta bene, 8:30 c'è già il pienone, guarda, la terza volta che vado ed è una cosa impressionante, ogni domenica è sempre peggio. Guarda, dalle 8 alle 8:30 è una cosa impressionante, dunque essendo lì un'ora prima, un'ora e mezza prima, se ti becchi il punto tuo preferito, tranquillo, te lo selezioni, oltretutto c'è a posto e non c'è nessuno per il momento, dunque te lo godi il mare. Probabilmente dai punti dove vai, se vai alla rotonda è così, sì, perché la rotonda è una delle spiagge più frequentate da Sassarese e cose. Però se vai tra il quinto e il sesto dove vado io, lì c'è, guarda, un paradiso. Tu arrivi alle 8:30 e non vedi un'anima viva ancora. Io sono arrivato con Marco l'altro giorno che Emiliano non poteva venire, siamo andati via a Marco. Alle 8:30 siamo arrivati lì, alle 8 siamo partiti, 8:15 siamo partiti da casa, alle 8:30 eravamo lì. Abbiamo parcheggiato, abbiamo trovato il parcheggio e ce n'era poco. Poi siamo arrivati, abbiamo fatto quel pezzo di biletta, che faccio per attraversare la spiaggia, e poi abbiamo trovato subito la spiaggia, che avevo il mare calmo calmo, era da Dio, abbiamo pensato a un veloce, ci siamo spogliati e ci siamo subito tuffati. Dunque, tra il quinto e il sesto, mi stai dicendo, c'è un piazzale prima della spiaggia, o prima c'è la pinetta? Penso che so, però, ma non riesco a inquadrare bene il punto, sicuramente sono andato altre volte, ma non riesco a ricordarmi. C'è un piazzale quando entri, giustamente, senti al sesto pettine, giri a sinistra, e fai un tratto di strada, poi trovi un piazzale, senza nessun bar. No, Antonio, allora la macchina tua è piazza, non ci devi manco entrare. Tra il quinto e il sesto, sulla destra, ti rimane uno spazio dove si mettono tutte le macchine, sulla strada, non all'interno. Poi tu attraversi la strada, vai dentro la pinetta, attraversi un pezzettino di pinetta e sei arrivato al mare. Ah, ho capito, perfetto, memorizzato. Andiamo mi avvicino allora, se c'è la cosa, anzi ce la faccio. Devo andare domenica a portare Paola, giustamente ne ha bisogno, e provo lì a vedere. Giustamente presto. Magari domenica ci siamo anche noi, se ci troveremo. Se i signori ci svegliamo presto, perché la domenica qua è un problema svegliarsi, capito? Perché sabato notte solitamente andiamo in giro. Andiamo in giro, facciamo una passeggiata al Ghera, a Porto Torres, e torniamo un po' tardi, quindi poi la domenica Bisattini, ui. E beh, si capisce, ma prova a chiederglielo mi domenica al mare e vedi un po' la loro reazione com'è. Dici, comunque è un bel punto. Il problema è che la sera lì diventa, la mattina è l'acqua limpida, si vede il fondale, la sera tende sempre a ingiallirsi un po' l'acqua, perché ci sono le alghe che col caldo si sciolgono, ma non è roba di inquinamento, è roba tutto naturale. E forse per quello, già da piccolo dovremmo essere già abituati alle alghe di Platamona della Rotonda, i miei genitori lo portavano sempre lì da piccolo, dunque ci abbiamo preso l'abitudine delle alghe. Le alghe si sciolgono perché manca l'ossigeno, come scalda l'acqua, manca l'ossigeno e si ingiallisce un po', però se vai in orari buoni, io solitamente quando vado, se vado solo con Marco andiamo presto, però se c'è anche mia moglie alzarsi, è un po' restia. Scusami un attimo, già mi stai chiamando Patrizia, arrivo subito. Sì. Cadaveri, a me ci vuoi la frequenza? Oh, fa chi? Come? Potremmo chiudere la frequenza. Ciao Gianni, mi hai sentito? No, eravamo sino adesso parlandovi con Antonio Diussi. C'era anche Lucrezia, ma deve essere andato a dare da mangiare al cane e poi si è mangiato il cane lui. Addirittura, e caspita, tutta questa fame aveva. Detto che si allontanava per mettere da mangiare a Luna, fatto sta che poi non è più rientrata, allora io ho pensato prima di andare a mangiare, l'ha fatto ingrassare e dopo se l'ha mangiata. Che aspettina, andiamo bene. E beh, già, tutto a posto. Mi sta ruttando, maniandosi da... così non è bello, vedi, poi di te come mai sento la mancanza qui e lì, non vanno bene queste cose, tempo. Vedi, anche ruttato adesso, l'hai sentito? Anche ruttato, caspettino, ha digerito bene, e beh, Lucrezia, e beh, valica di croci, ma a te già, provare per credere, hai azione. Stavamo commentando lui. Ma di come avevo morito, che il buon tu? Caro Lucariello, io sempre hai azione sono, provare per credere. Beh, ma se ti muore arrivi però, mi tocca a me. Bisogna vedere sempre. Ciao, Vivi. E allora, l'altro giorno ti ho visto che eri tutto quanto spaventato, ma spaventato. Ma dove? A piedi. Ti ho salutato, manco per lo soccorzone, sì. E dove l'hai visto a piedi, dove? Lì c'è la casa tua. Me la contate la moto, la sapidiva, mi sei fermato la moto, bacca di taiga. Me la fatti scellucci. E andiamo via. Ah boh, l'hai smontata, praticamente mi si incolla qua il galleggiante della benzina. Se si incolla poi la benzina arriva, sì, ma non scende giù, perché una volta non cammina. Poi gli ho cambiato il galleggiante ad essere battuto la benzina. Poi gli ho cambiato, non me lo metto, poi c'ho la gomma bucata di dietro, anche un carbone di raggi preso. Sono spillito dal galleggiante del carburatore. Luca. Come? Con spillino dal galleggiante del carburatore? No. No. E lo sai io? Si incollava, forse è buono, no, il galleggiante, ragazzi, l'ho pulito, adesso non lo fa più. Ho capito. Va bene. Ok. Ah, perché ti ho visto molto preoccupato, ho detto, che sarà, vabbè. Magari per le cose tue, dai, non sono stato lì, ho suonato, ti ho salutato, però giustamente ero di passaggio, anche tu lì. Va bene, ok, fai girare. Avanti già, ripeto. Luna, mangiato. No, non ha fame di. capito? Sì, io gli stavo dicendo a Falchetto, ho detto andate a dare da mangiare a Luna, a Lucca, per farla, deve essere che ce l'ha fatta ingrassare e poi ce l'ha mangiato lui. Perché ti stavo aspettando, vedevo che non entravi, ho detto che rientrava dopo. Che lo so già, ci vuole tempo anche. Avrà mangiato anche tu, oltre che Luna, no? Che cosa ho mangiato? Tu hai visto che il capoccolo come fa? Parola. Ah, che cazzo mi dà fuori? Guarda, mi guarda di pazienza, io mangio, poi non me ne felice, fa male il maiale, ma lasciamo fuori. Cosa fa male? Fa male col caldo, dicono che ha calorie, boh, ma chi se ne fu? Io lo faccio lo stesso, non mi va di nulla. Yeah. E il fatto che se compra la carne costa anche di più. Infatti, no, ma già è buona, buona, 45 euro il chilo, buona, buona, buona. Ma tu mi proponi tutto fatto arrosto e parlo al fuoco. Ma dammi la balzetta, io ti lascio tutto il resto per la pancetta. Vabbè, ti credo. E anche il capoccollo mi piace. Capoccollo e pancetta. Sono proprio saporiti, quando li fai bene qua. Mi piace anche lo zimino, però vado per la pancetta, quando è bella croccante, mio, io. Radio Falchetto, dai, adesso vado nel frigo, c'ho fame, cazzo, allucinante, bro. C'è anche Antonello, avrò bisogno di dormire solitario, c'è anche Antonello di Ossi. Ciao Antonello, buonasera, avanti. Si è allontanato 5 minuti che l'ha chiamato la moglie, ma pensavo fosse rientrato. Ma magari fosse qualcuno lì e mi ha sentito dire una parolaccia, ma me l'ha fatta di proprio lì Antonio. Ma io, baracchino, che non ti compete parlare a quest'ora, io. Educato, Luca, dai, no, già lo sai. Cosa? Perché? Che sono una persona educata, non dico parolacce. No, mi sei fatta lì proprio tu, avanti, Tino, buonasera, se mi ascolti, capi. Sì, è perché non ti ascolto, ciao, buonasera a tutti, Gianni, ma cosa che non ti piace? Me? No, mi piace tutto, però la pancetta la preferisco. Ciao, ti ben sentito. Ah, il verme solitario, ciao, perché? Ciao, Tino, ben sentito. La mi sicura, ma guarda, allucinante, c'è un periodo che sto mangiando qua. già va bene, vuol dire che non hai problemi. Ah, salvino, ma i problemi non vuol dire che non puoi mangiare. Ah, io se la so c'è a pagare. Tra l'altro, ti sono una voce a mangiare, buono. Tu vai ogni volta, tipo mangia mezzogiorno, poi vai alle 3, poi vai alle 6, poi vai alle 9, non prendanno, eh? No. Ui! Guardate come si com'è andato, ma. Che vabbè. Ma di te mai la vita che lo sa, bro? Distribuisce solo il giovedì. Ma non me la portatore si fa così. Ma io dico mangiare proprio, quando fanno le. Un piatto caldo qui già, per i barboni. Ah, sì, quello sì, via. Che via, quella attraversata del corso. Via. Non mi viene, vabbè, comunque ci ho capito. Sì, quello tutti i giorni, a pranzo ce la danno tutti i giorni. Non so proprio. Antonello, avanti, dai, io aspetta che arrivo, cioè, vediamo un po' se c'è qualcosa da mangiare, già fin è. Però devo scegliere prima, aspetta. Ah, ma devo bisogno di cambiare. Ciao Dino, mi hai sentito? Buona, mezzo per la mangiare, dai. Mamma mia, allora mi senti bene, vieni a farmi. Allora andiamo così. No, è troppo tardi, dai. Rimandiamo al fine settimana che siamo più serini. Già appagato, già va bene, eh. Via, voi parlano di mangiare a dieta, che a dieta sì. L'estate sempre, l'estate io sono perennemente a dieta. Ah, addirittura. Beh, ce l'ho a prova costume. Amici rapidi. Se non per il zoma non mi sta bene. Che miseria. Sì. Poi, siete raccolto la cena stasera, tipo la di... Sì, mi dico, e poi te ne racconto una io di scena, di tutti i bagni di lì. Mamma mia, guarda, senti bene. Mi è uscita questa cliente dal terrazzo, io al piano di giù del terrazzo, mi fa sia un muratore o un volo d'acqua, e cioè, ho detto sì sì grazie, molto gentile, cazzo è lei, altro che acqua era, e non mi è uscita con questa, con questo vestito, Sergio sono bambini sempre già. Ma lasciamo perdere, va. Con queste non, mamma mia, le ho guardate, cosa guarda, pazzesco da raccontare. Ma mi dico? Via, con i strippini, gli strippini, ma gli strippi le ho guardate, a luci, no? Altro che acqua era. Chi si è fatta appuso? Via, non dire. Che cosa bella! Via, è te. Sombra. Voglia. Ehi, tu devi attaccare una corda e salire su. Mamma mia, non questo. Ma poi che nulla ha deciso. Nulla, uno sguardo e bu. Vedere ma non toccare a tu. Affanculo. Mamma mia, me la prendo il grillo. Ma è un modo per essere gentile, non essere, magari chi su di furia e va. E allora tu, porca miseria, ma fare quanta bocca, ne scrivo una cosa allucinante, ma da dove tu puoi uscire? Con un vestito, cazzo, che ti arriva, diciamo, al culo, scusate dirmi, e che vuole montare le domandate, ma io devo ricordare. Mamma mia, meglio non parlare a parlare di quelle cose. Omine sono, omine. Guarda, ti sei sbagliato in due, vieni avanti. Stai innescando, a tu stai innescando, gatto. Fa il culo a me, è troppo l'alzato, guarda se fa meglio. Ma che cazzo devi andare? Che fa? Mamma mia, mamma. Quanti anni aveva? Quanti anni aveva? Sovi, Giovincella tu, Giovincella l'età tua. Mamma mia bella, che bella notizia che mi hai dato. Sai che c'è anche Alghero, avanti, buonasera. Ma vorremmo che nascosto, non io voglio oggi di parlare, io dai. Cosa vuoi fare, gli orecchi di porco? Non va bene fare gli orecchi di porco qua, eh? No, mi piace scaltare. A proposito, quando organizziamo, dai? Mi state facendo venire fame. Sai che cosa? La rustita. Sì, una rustita, sì. Guarda tu. Mamma mia, come sto. Papà, cazzo, che notizia bella che ci dà Leoncini. Ma, oh, parchetto. Hai visto? Ma ti sto dicendo che era una cosa, una paura, tu. Adesso hai fatto gli schizzi. Non lo ricordo mio. Non volevo perdere la mia reputazione, ma ti dico che era una cosa da paura. Scusate, fate la tira di piano, ma lei non ci sei? Vabbè, perché se sentavo un attimo, poi rientravo, deve essere se facendo qualche cosa. Avanti, Leoncino, buonasera. Oh Gianni, per dire che, come si dice, scusa Leoncino. Carlo Carviale, è tutto lì. Ma chi è Giuseppe questo qua? È io. Ciao Giuseppe, ciao. Io. Ciao, grazie. Bella ragazza, anzi mia cugina. Finalmente è scambiato per Giuseppe, non ci credo. Ah, tu segui il cazzo di Popotta, cosa cazzo è? Signori, prima non lo vai, ora con il mic, se no dopo perdo il giro. Ciao, divertitela. Ehi, ciao, ciao. Il barba papà, Luca. Che? No. Ehi, ciao Giuseppe, ciao, divertitela. Che è barba papà? Sta stannando, aspetta 5 minuti. Tutti quanti, anche al vice sindaco, presidente del Proaghe, eh? Giuse, ehi, dimmi a tu. Dì la verità che me la lasci di buco, a tu, Maledetto, maledetto. Ah, maledetto sono. Antonio Falchetto, tutto bene? Tutto bene, io ti ho visto dalla finestra, M'hai visto, m'hai visto? Sì. Scappa. Paroci. Ah, io facciamo le persone che c'è gente ancora che sveglia, dai. Figa, avanti. Bombolino, ci sei? Cappa, cappa, cosa ci vuoi fare? Sentiamo un pochettino così, dai. Ci divertiamo un po', dai. Cappa, figa, Luca, ci sei? O batti un colpo? Già ci sono, non ci stanno problemi, dai. Gatta, gatta, gatta. Ci sono, là, sono qua. Sono una cosettina, barracchino, va, la computer. No, non c'è. Sono qua. Papà. Giuppa! Giuppa! C'è anche Claudio quello. Relu. C'è anche Claudio quello. E Claudio c'è la sorella. Sono città mercato dove c'è il tabacchino, ho capito, lì ci sono le macchinette di coso di Sandro, ci sono questi barba papà, se ce ne sono rimasti, non lo so. E quanto costano? Mi sembra 2 euro. Andava, dai. Ah, mi comprami la nonna allora, la zia. Gianni, doppio rumo, ascolti Luca, gatta. Ehi, Luca, una cosa devo dire, va meglio quando fa la tua voce normale. Non mi piace questo. Quando fa la voce normale ci metti. Ciao, ragazzi. Lo faccio apposta, dai, gatta. Attenzione, Gianni, doppio rumo, ascolti Luca, gatta. Lascia all'infinito, lascia. C'è la domanda. Attenzione, Gianni, Luca, ascolti Luca qua, gatta. No, già finisce, capito? Certi pezzi sembra il bombone. Adesso lo uso normale, va? Ok. Luca. Ehi, dimmi. Ho detto, adesso ho capito di chi è di quel baracchino che c'è all'Ecco. Ora ho capito di chi è. È di Massimiliano, eh. Cappa, già lo so, lo so. Vabbè, adesso tenete ripronti che Leoncino uscirà anche lui con l'Alan 48 fra un po'. Andava, ma così modificato? Cappa. Andava, da, va bene. No, aspetta, forse... ecco, adesso dovrebbe essere più alta la radio, vero? No, già abbastanza bene. Vabbè, da. Adesso che caldo che fa. In moto c'era freschetto, la verità. Si sta, va bene, ma c'era anche freschetto. All'ospedale c'era un caldo, quindi c'era stampi e gamberi. All'ospedale, perché? C'è una mia amica ricoverata, hanno operato dai calcoli renali, cazzo, ho fatto vedere, gli hanno messo in un coso, in un contenitore, mamma mia, pietre sono, ghiaia sembra, sì, mamma mia. Quella è l'acqua calcarea, mi grazie. Eh? L'acqua calcarea lo fa. Non le vingo, la vingo di birra. Ho visto il mio suocero piangere come un bambino dai calcoli renali, dai dolori che avverso. Faccio bene a bere birra io, l'acqua fa male, fa venire i calcoli renali, però se ogni tanto capita, già quando vado a urinare mi frigge. Quello che sarà un'infezione urinaria, alle vie urinarie, lo fa anche a me qualche volta quando succede, cioè, ti brucia quando stai facendo la pipì, quello lì c'è un'infezione alle vie urinarie. Aspetta, mia cugina gli hanno infilato una sonda già dal naso a fargli arrivare allo stomaco, mamma mia, io non farò mai una cosa del genere. Poi c'è un'altra signora l'ha rifiutata, non lo vuole, questa sondina. Cazzo scoppia? No, perché ha problemi allo stomaco, capito? Devono fargli, non so che cosa, cazzo scoppia devono fare, perché dice che non so, boh, non digerisce. Lo so, prima ti davano un liquido di contrasto, va bene, ti facevano questa cosa qua, ti entravano la sondina, dice che vomitevole, l'ha fatta anche mia suocera. Mamma mia, cazzo. Questa praticamente torna al naso, ti passa vicino al collo, dice fastidiosa, che però purtroppo lì la deve tenere perché ha mangiato, non ci ha fatto digerire, adesso piano piano sta, si sta riponendo lo stomaco, non lo so. Cazzo che cosa aveva, mamma mia. Poi c'è questa signora, stava, tutta piena di tube e tubicini. Oh, varaccio. C'è la gente che sta male mentre noi stiamo bene, se ci pensiamo. Quanta gente c'è che sta... Se tu vai dove c'è mia sorella, nel quell'ospizio dove c'è mia sorella, che... è un ospizio a livello, se non fosse per gli ammalati che ci sono, sembra un albergo. C'hanno anche il televisore in camera, letti in legno, eccetera, eccetera. C'è questa signora che sta sempre gridando nella camera a fianco, fa impressione anche a passare. Scusate, ma devo il viaggio da parte mia. Via, perché tu sei scappato? Non mi piace questo discorso. E ti credo, è una signora bassa. Usiamo questo qua, me lo lascia, me lo fastidioso, non c'è bipere niente, perché io te la fastidio. Ma a me non mi dà fastidio niente, è interessante se stai tranquilli parlando e basta. E che fastidio. Roba! E già tardi anche, capito? Faccio un po' di fame, spero il cioccolato, va. E prima di venire, bravo, c'ho un coso con le spoglie che ci metti la muore, la dorsina offesa, la panna, non le mangio così, sono buone offesa, poi c'ho patatine, poi sono ragazzi, non so già, io cosa stai mangiando? La dragolaccia. Luca, ma non è che c'è il bermo solitario, no? Tu mani mani, però non ingrassi mai, cazzo, come cavolo fai, non ho capito. No, un po' già si è ingrossato, non dico che ingrasso, ma un po' si è ingrossato. No, non ingrasso mai, se tu fini e butti tu infatti. No, io sono l'ultima volta che ti ho visto... tutti su al quadrato, c'era Antonio, c'era Claudio e l'unica volta che t'ho visto, da voi non t'ho più visto. Meno male che c'è la gente che fa anche quel Pavel Bar che conosceva, eccetera, eccetera, eccetera. E si sono messi anche loro a difenderlo, perché se succedeva un casino vero. Si stavano difendendo due, lui si è messo in mezzo a separarli e ci ha preso qualche colpicino. Ha messo in greffa, a farlasse, cose, stesso casino, facendo due. Il bicchiere quando è in più cazzo da subito a capo. Sì, vabbè, il bicchiere mi fa solo ridere, fare battute proprio le viatti, ma non c'è più tutti, ma te lo ma che te lo dai, chiuso là? No, si è allontanato perché stava parlando di gente malata e se ne è scappato. Ah, scappa. Salto. Vabbè, dopo facciamo girare. Però ti stavo dicendo che è una bella storia. Senti quel giro lì, rischi perché rischi, però 120 della notte, 150 della notte sono buone. Vabbè, giustamente. Vabbè, fate il conto, se ti devo dare 150 o 120, quanto ne incassa lui? Però lavori solo venerdì, sabato e domenica. Ma a lui mi ha detto per venerdì, poi non so quanto dura questa festa, capito? Non so se dura tutta la notte oppure sino a luna, penso sia a luna, perché poi non puoi fare più casino, capito? Le due deve essere già tutto finito. Sì, ma si mette l'imbriaghi, perché la festa della vita si può dire tutti, e voglio vedere cosa fa, giuro. Non so. Problemi non ce n'è, e già facciamo il 112, 113, a voglia a caricare, oioioi. No, quello è ultimo, perché se no li farò chiudere il locale, non locale. Sì. Se vedono che c'è gente che dice la presidenza, chiudono il locale. E dopo, tutti ti ammazzi al principale. E cappa, oioia, vabbè, vediamo. Adesso vediamo, mi deve la risposta per venerdì, glielo telefono domani sera, e per venerdì, se è confermato, non lo so, ancora non so niente. E se lo vedo che mi ha fatto fare la canna, mi ha fatto fare la canna, cazzo qua, di togliere le piante delle palme, no? Da un posto e ripiantarle dell'altra, cazzo, c'erano roba di 50 piante. Come hai fatto tu? Che cosa dici che fa la palma? Scavati, tutta quanta le radici, con le radici intiere, e messe dentro questo secchio a bagno, e poi ripiantate dentro un'altra parte, capito? Vabbè, se non ti regala nessuno, io già, tutti si va dei travaglia, io bagno sempre un caddio, c'è da dire. Però si va avanti, là, Luca. Luca. Aspetta, ma arrivo a te. Drommi, Lucrezia, Drommi. Ah, ragazzi, Drommi, sono là, ti arrivo. Io è rimasto oltre Luca. Tino se n'è andato, no? La mazza viene, cioè, quando io cazzo quello sparisce. Ma ho detto che stava facendo roba, se no perdeva il turno, forse stava giocando al computer. Ah, cazzo. C'era anche Antonio Di Rossi, poi l'ha chiamato la moglie, ha aspettato un attimino, e poi non si è più fatto vedere, o che la moglie non sta bene. Non ho sentito io. Giorgino. Ya, dimmi, Bomboli. Cappa. Si è avuto una cosa oggi. Di che cosa? Già te lo dico quando ci vediamo. Cappa, e se non mi fai un colpo di telefono non ci sono problemi. No, adesso lo prendo, aspetta due secondi. E cappa, va bene, scusate un attimo.